Carissimi amici di Everything, bentornati a questo nuovo episodio. Michela, ciao. Bentornati amici, sono qui che fremo per tutti questi cambiamenti che stanno attraversando l'Europa. Climatici, non so, no, so che in Giappone c'è un... Tra l'altro salutiamo il nostro amico Luca Casciola, che è bloccato in Giappone con un tifone in arrivo, quindi... Chissà se tornerà. Non lo sapremo mai. Comunque è un pezzo che manchiamo, perché noi dobbiamo fare... Che è successo? Sono successe un sacco di cose, ma pure a noi, che c'è... Perché non siamo... Perché ci piace andare in giro. Perché non registriamo? Cioè, abbiamo avuto un cosiddetto matrimonio del cuore. Insomma, siamo stati impegnati. Matrimonio rosso. Siamo stati impegnati in questa trasferta che ci ha praticamente preso tutti per questo matrimonio importantissimo del nostro amico carissimo. E tra l'altro grande personaggio di Fotogramma 24, che magari un giorno convinceremo a tornare, chissà. Chi lo sa, sarebbe bello anche tirare fuori le vecchie puntate di Fotogramma 24, che era uno tra i primi podcast che abbiamo fatto, bellissimo podcast sulla storia del cinema, e che è legato anche a un aneddoto importante che lo raccontiamo, tanto perché lo diciamo, Everything manca da un po' di tempo e poi faremo una puntata regolare. Questa non è una puntata regolare, è una puntata molto breve, perché la facciamo in virtù di una cosa che vi spieghiamo fra un poco. Però prima di spiegarvelo diciamo così, che raccontiamo appunto questo aneddoto, così ci perdo un ma po' sì, di tempo. L'aneddoto è che il nostro amico Alex Raccuglia è venuto a Roma tanti anni fa, quando ancora era un pischelletto, e quindi c'era Fotogramma 24, che saranno stati 6-7 anni fa, forse, anche 8, sì, forse infatti. Anche 8. E niente, nel viaggio tra Roma e le Cascate delle Marmore, perché ci teniamo a fargli vedere un posto bello qui vicino, abbiamo deciso di ascoltare Fotogramma 24. Rimettiamo che la Cascata delle Marmore stanno a tipo 40-50 minuti da qua, insomma. Vabbè, il viaggio è durato 3 ore, ci siamo persi, persi letteralmente nei meandri della regione Lazio, non so neanche dove sono andata a finire, e soprattutto ci siamo persi nei racconti bellissimi di Michele, che parlava di personaggi particolarissimi. Di matte che venivano sottoposte a un documentario, sì. E... mi pare anche pidocchi sottoproletari, la cosa più importante. Che poi, tra l'altro, la cosa bella è che questo podcast, come erano i nostri primi podcast, che diciamo non rispettavano proprio uno schema, durava tipo 2 ore e mezza, 3 ore, e praticamente noi siamo arrivati quando è finito il podcast, quindi era il podcast che ci ha praticamente messo in una sorta di bolla temporale nel quale noi facciamo avanti e indietro sull'autostrada cercando... David Lynch sarebbe stato pieno di noi. Sì, questa è una cosa molto molto molto strana, e vabbè, poi alla fine siamo arrivati, quindi c'è questo aneddoto che ogni tanto ricordiamo con Alex, quando Alex ci ha provato ad andare in macchina con Michela, si è acceso podcast perché insomma potrebbe succedere qualsiasi cosa. Va bene, allora, questa puntata, Michela, è una puntata che abbiamo fatto, facciamo uscire così un po' di fretta, perché altrimenti sarebbe andata un po' in là col tempo, perché abbiamo conosciuto ed intervistato una ragazza che vive a Londra e che prima di Londra è vissuta ad Edimburgo, quindi insomma ha, diciamo, esplorato un po' le Edimburgo, sì. Le varie realtà, insomma, del Regno Unito, perlomeno due di queste delle realtà del Regno Unito, e con lei abbiamo chiesto gentilmente se lei voleva partecipare alla nostra trasmissione, facendosi intervistare per parlare di quella che era la situazione della Brexit, insomma, cercando di capire il punto di vista suo, il punto di vista anche delle persone che lei conosce, e com'è il clima un po' da quel punto di vista durante questa insomma, per questo evento imminente praticamente. Ora, noi volevamo poi costruirci una puntata intorno, però non abbiamo avuto il tempo, perché appunto abbiamo detto ci piace? Che ci piace? Noi ci piace? Andiamo in giro, sei spenta Michele. e quindi abbiamo detto vabbè, facciamo questa puntata speciale, facciamo un'introduzione, lanciamo un brano, così parte poi questa intervista e poi ci sentiamo dopo per i saluti finali tra poco, insomma, quindi... Ma abbiamo annunciato chi è questa ragazza? Ilaria, l'ho detto, sì sì sì. Ma poi dopo la presenta. Quindi hai detto tutto tu, io che sono venuta a fare. È vero, per esempio ad annunciarci il brano che ci separa da quale intervista di Ilaria. Allora, beh, ovviamente non potevamo che scegliere un brano classico, un classicone bellissimo. Roma non fa la stupida, no, stasera. Un classicone, no? Che praticamente rappresenta la Londra di sempre, e la Londra soprattutto quella panchettona, quella che tutti ci abbiamo nel cuore e che non so se esiste ancora, però vogliamo immaginare che sia ancora così. Quindi ascoltiamo i Clash, ascoltiamo London Calling. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the ring of the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. Dunque, Michela, ritorniamo a parlare di questo argomento, insomma, che nelle scorse settimane abbiamo trattato diverse volte, che è quello della Brexit, con tutti gli annessi e connessi, che i grossi problemi che si sta portando dietro, ma soprattutto con le grosse polemiche che si sta portando dietro. Soprattutto oggi in giornata, appunto, c'è stato un botta e risposta anche con Dublino, che dice che è assolutamente inaccettabile, ovviamente, l'atteggiamento. Ecco, okay. Però noi, diciamo, ne abbiamo parlato sempre in maniera, come posso dire, non dico superficiale, però insomma abbiamo sempre espresso quelle che sono poi le nostre opinioni, le nostre considerazioni, ma non ci siamo mai posti di cercare di capire, insomma, come viene affrontata la questione o come viene osservata la questione direttamente nel Regno Unito. E quindi questa volta ci siamo organizzati e abbiamo con noi una giovane psicologa che vive a Londra, Ilaria. Ciao Ilaria, benvenuta. Ciao a tutti, ciao, piacere. E grazie soprattutto di aver accettato, insomma, di partecipare a questa chiacchierata che facciamo. Che intervista sembra un po' una cosa troppo formale, no? È più una... Sì, è uno scambio, diciamo così, un arricchimento per capire un po' come la situazione sul posto. Sì, vi racconto un po' la follia di qui, visto che sono psicologa. Esatto, tra l'altro c'è poi questo elemento, questo ennesimo filtro analitico, diciamo così. È molto interessante da quel punto di vista. Senti, Ilaria, io inizierei dal fatto che noi sappiamo che tu hai vissuto in diverse realtà nel Regno Unito, quindi la Scozia, quindi Dublino, sì, Edimburgo, scusami, e Londra, ovviamente, quindi l'Inghilterra. E sappiamo che già lì ci sono delle grosse differenze, anche già culturali, no? Anche storiche, quasi secolari, insomma. Quindi immagino ci sia una diversa percezione di come le due realtà affrontano e vedono l'Europa. Assolutamente, sì, assolutamente. Premettendo che sia la Scozia che Londra erano per il Remain, per cui sono entrambe anti-Brexit da questo punto di vista, c'è una bella differenza che è molto interessante in Scozia, perché diciamo che mentre Londra è sempre stata una città multiculturale, sviluppata, ovviamente Londra, grande capitale, la Scozia, grazie all'Unione Europea, ha avuto uno sviluppo culturale, economico, proprio tangibile, evidente. Per cui il loro essere affezionati all'Unione Europea ha un motivo che si vede, no? Si vedono gli effetti, poi non si parla mai, no, degli effetti positivi dell'Unione Europea, come se fosse quasi scontato. Sì, si parla sempre di tutti i danni, delle problematiche che ci sono, però in realtà ha portato tanto sviluppo, e i finanziamenti e l'affluenza di persone, la circolazione di persone, di idee, di pensiero. Ad Edimburgo e in Scozia veramente è tangibile, vedi chi si è trasferito, diciamo, 20 anni fa era in una situazione completamente diversa, e continua a svilupparsi. Io in 3 anni ho visto lo sviluppo, per cui non so immaginare da prima. E invece in Inghilterra è un po' diverso, perché vabbè, al di là di Londra, che come dicevo è stabile, è sempre stata florida, e quindi insomma più di tanto non immagino sia cambiata la situazione. Nei piccoli paesi probabilmente non hanno proprio avuto concezione di cosa significasse l'Unione Europea, per cui lì la propaganda è andata a manetta, fatto man bassa, perché poi gli effetti della crisi, è facile trovare il nemico, lo chiami Unione Europea, li chiami europei, li chiami come dissi voglia. Che poi questa non c'entra niente con le domande che c'eravamo prefissati, però mi è venuto in mente adesso. Se non sbaglio, comunque i leader scozzesi comunque hanno sostenuto, diciamo che per coerenza dicono parteciperanno a tutto il processo della Brexit, ma poi dopo un po' come rimandare, dico, poi dopo ce la vediamo fra di noi, no? Un po'... Vabbè, diciamo, la Scozia ha già avuto le sue opportunità di staccarsi dall'Inghilterra, ha fatto anche lei un po' di referendum. Da questo punto di vista non so quanto stiano facendo la voce grossa, tanto per... ma non è tenuto molto in considerazione questa minaccia. Ah, almeno. Ok, sì, bravi. Sì, sì, ok. Senti, Ilaria, io ti volevo chiedere, da quello che hai potuto capire, che hai potuto vedere, soprattutto in Inghilterra, durante, diciamo così, il tuo periodo inglese più che scozzese, questo dibattito sulla Brexit è nato durante la campagna elettorale sul referendum, quindi è esploso così come è esploso il referendum, oppure era un'esigenza già palpabile da tempo? Allora, se fosse stata un'esigenza già palpabile, nel senso, io non me ne sono accorta, prima del referendum, diciamo, se ne parlava un po' così, quasi come come un divertimento a tavolino la sera dopo mangiare, ma non c'era nessuna preoccupazione veramente nei confronti del referendum, non c'era nessun sentimento molto forte, almeno tra le persone che conoscevo io in giro. No. Diciamo, la mattina dopo il referendum ci siamo svegliati tutti con una doccia gelata, perché non se l'aspettava nessuno questo risultato. Quindi il dibattito poi è nato quasi a posteriori, che voglio dire, ti fa pensare a quanto diventa uno strumento di democrazia come un referendum, posto in maniera sbagliata, può essere uno strumento molto pericoloso. Quindi sì, questo ha fatto sviluppare molte riflessioni anche su questo, però no, come esigenza tangibile prima non, Onestamente non sembrava, anche perché, cioè, voglio dire, il Regno Unito ha mantenuto la moneta, ha mantenuto i confini, in qualche modo ha una voce in capitolo abbastanza grossa in Unione Europea, per cui diciamo che era un po' le uniche voci, per esempio, di persone che ho conosciuto che probabilmente hanno votato per il Leave, per la Brexit, era un discorso di voto di protesta nei confronti del Parlamento europeo, di come le direttive europee fossero eccessivamente restrittive, e un po' le solite cose che si sentono dire anche in Italia, anche in un po' negli altri, in tutti i paesi in cui in Ungheria, in Polonia, insomma, tutto dove cavalca molto sto populismo. Esattamente. Senti, tu sei, ovviamente sei straniera lì, no? E la gente quando parla con te, quindi no, al di là del dibattito in generale, no? Ma quando parla con te, che cosa dice? Qual è l'opinione che esprime riguardo questa cosa? Che probabilmente magari è anche filtrato dal fatto che sta parlando con te. E sì, tu, come persona, cosa pensi di tutta questa situazione? Allora, la gente quando parla con me, sì, c'è sicuramente un grande filtraggio, c'è indubbiamente il fatto che, essendo a Londra, è una realtà molto diversa e le persone hanno una mentalità molto diversa, però quello che percepisco è dispiacere e quasi un po' rassegnazione, anche nel senso non vedo questa cosa era brutta, si dovrebbe cambiare, vedo un po' come ci dispiace che abbiamo fatto questo, come ci dispiace che sia successo questo, però non preoccuparti perché pensiamo che tutto andrà bene. Da un punto di vista umano mi danno molto fastidio le modalità con cui stanno parlando della missione del restare nel Regno Unito, per cui c'è stata a un certo punto una proposta secondo la quale se tu non guadagnavi almeno 30.000 pound all'anno non eri accettato nel Regno Unito, che diciamo è, come dire, un cut-off abbastanza forte, per dire, un medico che entra nel sistema sanitario nazionale appena entrato guadagna 28.000 pound all'anno, per cui è abbastanza classista, è fastidiosa come cosa. Sì. La Svizzera praticamente quasi. Sì, esatto. Sì, quasi sì. Poi non so se è andata in porto questa, però per dire, mi ha dato fastidio anche il fatto che ci abbiano semplicemente pensato a ragionare in questi termini. Però vabbè, ovviamente non lo dicono a me. Certo. Senti, certo. Ma è vero che gli inglesi sono ancora legati a questa visione del Regno Unito come impero superiore, come... come era nella storia, insomma. Detto tra noi penso di sì. Ovviamente. Anch'io penso. Vabbè, lo dicono pure anch'io loro. La però. Lo dicono, vabbè. Attenzione, a me non l'hanno detto, però si percepisce. Nel senso che fra le tante interviste che hanno fatto, ovviamente nelle comunità minori, come dicevi te, magari nelle zone più provinciali, ai pescatori o roba del genere, c'era questo richiamo al ritorno al Regno Unito come impero, sì. Ma se io a volte, ogni tanto, per farmi del male, leggo un po' nei gruppi Facebook pro Brexit, sì, c'è una supponenza molto forte. Quindi come noi leggiamo i gruppi pro Salvini, tu sai. Esatto. Cioè, ci piace proprio uccidere. No, vabbè, ci sono gruppi anche peggiori, quindi nel senso, poi alla fine se vai a vedere, se ogni tanto uno vuole andare un po' a stuzzicare la controopinione rispetto a quella che abbiamo, c'è veramente tutto, purtroppo. E a questo punto, proprio parlando di Facebook, ci fermiamo un attimo qua, perché insomma in Italia è arrivata, non so quanto poi questa cosa abbia avuto una risonanza, è arrivata comunque la notizia che la partecipazione e la manipolazione dal punto di vista propagandistico di Facebook, Cambridge Telematica e tutte quelle società che hanno comunque in qualche maniera indirizzato anche tramite fake news, scusate, e via dicendo, insomma, che c'è stata una forte partecipazione anche esterna, no? Su quello che è stata la propaganda pro-Brexit. Sì, sì, assolutamente. Hanno gli inglesi una percezione di questa cosa? Cioè, lo sanno? E cosa ne pensano se lo sanno? Ma il problema è che nel mondo di oggi, in cui siamo sobbissati di informazioni, è che fondamentalmente chi crede una cosa continua a credere in quella, nel senso che la notizia dell'influenza di Facebook e di propagande false c'è assolutamente è stata data, ma non ha influenzato, ha polarizzato ancora di più, per cui chi era anti-Brexit è ancora più anti-Brexit e chi è per la Brexit dice che non è vero e che quindi e che invece erano vere le informazioni che avevano loro. Per cui cioè, questo è un buon discorso che mi fa pensare in generale come ormai le opinioni sono diventate informazioni e le informazioni sono diventate opinioni, per cui se tu tifi per quella determinata cosa, tu guardi solo alle cose che confermano quella tua credenza, è quello che sta succedendo qui. Praticamente più si va avanti, più si polarizzano, e non c'è veramente, chi è veramente pro Brexit lo è a discapito di tutto, un po' come i terrapiattisti. Sì, no, che poi fa più il danno che crea la fake news, praticamente non riesce più a essere recuperata anche di fronte a conclamate dimostrazioni di quanto la news appunto fosse falsa, no? Cioè nel senso è proprio difficile recuperarla poi la cosa, e questo nel mondo dei social network è praticamente l'arma a favore di chi utilizza questo strumento, perché poi cioè, è difficile proprio tornare indietro, no? Sì, no, aizza le folle, ma solo le folle che già credevano in quella cosa fondamentalmente, quindi è veramente molto, molto triste. È molto triste, non si riesce a far ragionare in questi termini, le prove non funzionano, puoi portare quante prove vuoi, ma la credenza rimane più forte. Senti Ilaria, la trattativa tra Regno Unito e Europa sta durando oltre ogni ragionevole confronto. È costato al Regno Unito 2 primi ministri e un terzo che è praticamente incommentabile, che si sta barcamenando tra illecito e illecito per perseguire l'unico obiettivo di una Brexit senza accordo. E che ne pensa la gente di tutto questo e di questo primo ministro, diciamo così, di questo personaggio così ambiguo? È successa una cosa molto interessante dal mio punto di vista, che mentre quando c'era la May c'era un continuo pullulare di voci, di voglia di andare contro, insomma c'era una sorta di energia a combattere questa situazione, da quando è salito Johnson è come se tutti si fossero rassegnati, come vabbè non c'è più niente da fare. Ormai no, è salito questo, no basta, cioè possiamo sì esatto, dai allora è fatta, basta. Cioè pensiamo ad altre cose, no? È abbastanza che poi Boris Johnson ha fatto delle cose abominevoli, cioè chiudere il Parlamento è infatti pure su questo poi visto che gli inglesi ci hanno sempre tenuto a questa loro immagine della democrazia, no? Sì. Un'azione come quella di provare a chiudere il Parlamento, poi vabbè, c'è riuscito. Cannata. No, l'ha chiuso, poi hanno salvato qualcosina, hanno ottenuto qualcosa. Perché poi, visto che la Corte Costituzionale gliel'ha bocciata la cosa, quindi poi alla fine comunque hanno dovuto revocare, no? Questa. No, lui ci ha provato, la regina ha detto sì, va bene. La regina gli ha detto sì. Cosa c'è? Cioè, che questa immagine dei confronti del mondo è veramente un po' particolare, no? Cioè, nel senso. Sì, è abbastanza, è tutto molto contraddittorio, però il discorso è che effettivamente non se ne può più davvero, cioè tra un po' anche io sono per il no di basta, decidete, fate qualcosa, perché sì, certo, ok, però effettivamente diventa pesante, cioè come tutto il resto è tenuto in pausa, comunque problemi in questo paese ci sono, per cui non è che è paese delle fiabe, cioè c'è criminalità, la sanità comunque ha problemi suoi, cioè c'è bisogno di avere altri i ministri impegnati in altre discussioni anche, Il secondo referendum l'opposizione comunque non si capisce perché osteggia, però poi non è che non riesce a proporre alternative, non ha voluto proporre, ha bocciato di nuovo l'istanza di un secondo referendum, per cui anche lì è come se volessero lasciare portandosi il pallone, diciamo, però ovviamente non sta andando così e questo li ha trovati impreparati. Però sì, la gente è stanca, no? È estenuante, non se ne può più. Beh sì, poi è durata veramente oltremodo questa questione, però quello che vedo è che veramente c'è a livello parlamentare una battaglia all'ultimo uomo, cioè nel senso che comunque vedo pure i laburisti, cioè, no, i laburisti, i conservatori che perdono, come posso dire, anche appoggi dai loro stessi parlamentari, cioè sì. Sta diventando proprio una cosa tipo siamo 49 e 51, sì. Siamo 50 e 50, cioè è una cosa veramente uno stallo messicano quasi. No, no, guarda, è un paradosso della democrazia, perché veramente hanno fatto un referendum con i piedi, però ovviamente ora l'hanno fatto e devono fare. Avevo letto una cosa bellissima, dicevano che questo referendum è stato come chiedere vogliamo fare un sottomarino di formaggio, e tutti hanno detto sì, però poi in qualsiasi modo tu lo faccia è un sottomarino che non funziona, perché cioè, però il referendum quello ha detto e non lo dobbiamo fare, un po' questo. Sì, però il referendum l'ha detto, lo dobbiamo fare, però ovviamente nessuno riesce a farlo in un modo che soddisfi tutti e nessuno riesce a fare un sottomarino di formaggio vero. È buono, cioè bello. è una delle metafore più belle da 2010 che facciamo posto. Faremo una canzone dopo di Yellow Submarine. Sono sorveggibile di formaggio, bellissimo. Yellow Submarine, poi comunque sì, siamo là. e Ilaria, come hai detto tu, il Regno Unito ha i suoi problemi, li vediamo anche noi da fuori, cominciamo a vederli, è palpabile il calo del valore della sterlina, le aziende che lasciano il Regno Unito, che cercano di spostarsi molti a Milano, in Olanda, mm-hmm. Abbiamo visto le case farmaceutiche eccetera eccetera. E i catastrofici dossier sull'impatto della Brexit sull'economia britannica. Di queste cose si discute? Cioè, avete una reale paura o vi sentite comunque, si sentono comunque protetti dalla regina, diciamo? Allora, qui è un po'. Allora, sentirsi si sente, specialmente ad esempio ti parlo del mondo dell'accademia, le piccole università che si basano molto sull'affluenza di studenti europei, sui fondi europei, hanno staff europeo, sono un po', diciamo, un po' più nel panico, mandano email, cercano di, per esempio un'email molto simpatica, tra virgolette, era quella di evitare di viaggiare tra il 31 e gli inizi di novembre. Come questa immagine che rimani lì fermo alla frontiera, non sai più. Oddio. Dove. Però vabbè. Quindi sì, insomma, se ne parla, però anche qui il discorso è un po' polarizzato. Anche perché ad esempio Londra sembra avere un'economia comunque così stabile che non credo in realtà arriveranno le cavallette, e non credo che il crollo, non sento insomma paura di un crollo economico totale, però avrei un po' paura della qualità per esempio del cibo in caso di patti con l'America, o anche sì, le piccole aziende effettivamente inizieranno ad avere problemi, per cui saranno inglobate da aziende più grandi, da università più grandi, quindi sì, insomma il problema è sempre dimensionato alla forza di ogni azienda, di ogni città. In Scozia si sente tantissimo, molto di più anche, proprio perché come dicevo prima è costruita su fondi europei, è costruita dagli europei, si basa tantissimo sullo scambio culturale con l'Europa, per cui lì è ancora più sentita questa situazione. Senti, io io faccio richiamo un attimo come dietro le quinte, diciamo, uno dei primi messaggi che ci siamo scambiati quando Francesco ci ha messo in contatto, no? Dove tu a un certo punto fai la battuta, dici: appena ho finito di raccogliere, no, di accumulare scatole dei fagioli, no? che però di prima ha fatto molto sorridere, però m'ha fatto anche un po' riflettere. Cioè, è possibile che ci sia poi un po' un attimo questo, cioè possa, più si avvicina il 31 ottobre più nasca questa psicosi? C'è già, nel senso che sono finite le scatole dei fagioli. Sì, era una battuta, però l'altro giorno ho trovato della pasta Barilla al supermercato, ho fatto una scorta, ho detto, non so mai, sai mai, non la trovo più. Però sì, no, in realtà secondo me, e poi più aumenta l'incertezza, il fantasma del no deal, anche se sembra scongiurato, boh, ci ripensano. Insomma, sì, molte persone che conosco stanno comunque accumulando un po' di cose. Di scatole di fagioli. Sì, just in case. Come... no, però... Se sa mai, è così. Se sa mai, esatto. Meglio avercele un po'. No. Che poi, paradossalmente, e qui poi dopo, qui concludo le mie domande, poi vorrei una tua riflessione finale, libera, magari quello che... Però il grande impero britannico alla fine finisce un po' a fa la puttana degli Stati Uniti, tra virgolette, insomma. Sì, quella diciamo è la paura, no? Proprio tornando sempre sul discorso del cibo, che da buona italiana ci tengo tanto. sì, qui tutte le verdure, cibo fresco, cose fresche, la maggior parte viene in Spagna, Italia, Europa. Se cadono gli accordi, o peggio ancora, senza un deal le aziende non sanno più come rapportarsi, non cadono le direttive europee, insomma diventa un po' un far west il tipo di cibo che arriva qua. Quindi. Anche perché di fronte ai grossi macromercati, da qualche parte il Regno Unito deve andare. Cioè, esatto. Qualcuno deve parlare, cioè. Cioè, perché altrimenti non forse sono dimenticati che sono un'isola, perché insomma, esatto, e non gli cresce niente, come fanno? Andiamo a fare pizzate. No, vabbè, noi ultimamente abbiamo visto su Netflix una stupidaggine, però mi ha fatto molto riflettere, perché avevo visto un programma, sai, di questi dove fanno le gare di cucina, dove c'era questa famiglia assolutamente pro Brexit, dove non si parlava di Brexit, era molto propagandistico, però dove facevano sta propaganda in cui loro coltivavano qualsiasi cosa, mangiavano e mangiavano solo roba coltivata nella loro terra inglese. E io mi sono chiesto, ma quattro volte che se mangiano cavolfiori, patate, pietole da zucchero, ma è mandata al nausea, quindi non ho visto bene. No, era fastidioso, perché in effetti si vedeva che era molto, come posso dire, quasi quelle trasmissioni costruite a livello consolatorio, cioè, ma noi non abbiamo bisogno di niente. Era molto propagandistica. Poi mi faceva specie il fatto che Netflix l'ha anche tradotta e doppiata in italiano sta cosa, cioè nel senso che in realtà era oggettivamente un programma per il pubblico britannico, anche, no? Cioè, se c'era la presentatrice nera che ogni tanto li punzecchiava. Sì, li stuzzicava. Vabbè, ma qui c'è quest'anima londinese, no, del multiculturalismo, che si scontra evidentemente col resto dell'Inghilterra, un po' come New York, che non è gli Stati Uniti, no? Nel senso, assolutamente. Sì, vabbè. È assolutamente diverso. Quindi qual è la... dici che cosa succederà il primo novembre? Secondo cosa te? Cosa succederà il primo novembre? Questo farai tu, questo. Independence Day. Sarà un po' come Capodanno, secondo me. Non so. Ah, dici, false feste? No, penso più che altro che qualcuno scenderà giù con caschi e sprang. Il mondo ti scurirà, perché sì, il mondo sopra l'astronave. Guarda, onestamente io non credo più che avvenga, che è successo tante di quelle volte di aspettare questo giorno che poi è stato rimandato, che non ci credo neanche più. Quindi non so, non voglio cadere nella stessa rassegnazione che no, ma tanto c'è Boris Johnson, succede. No, per me anche Boris Johnson non ci riuscirà. perché è una completa follia. E poi, se dovessi sbagliarmi, ragazzi, vi racconterò, farò delle foto, perché... Cioè, tu hai ancora la sensazione che fino all'ultimo ci sia l'opportunità che non accada la Brexit, oppure parli dell'accordo di frontiera, perché questo non ho capito bene. No, io l'accordo di frontiera io non credo che ci usciranno. Oggi ne hanno presentato uno, però già come... No, no, vabbè, ma ormai sono palesemente... Delle, sì, sono delle palesi prese in giro oramai. Il governo è chiuso, ci facciamo, presentiamo accordi di frontiera sì, a cazzo. Sì, scusate, no, vabbè. No, secondo me non riescono ad uscire il 31 ottobre. Fu così che... No, ma no, io tu ci scherzi, lo sai perché mi fa impressione questa cosa che tu dici? Perché io sono convinto che loro, io parlo a livello di nomenclature, mo lasciamo perdere chi è ideologicamente a favore della Brexit, però secondo me comunque la parte economica e politica seria magari del Regno Unito, secondo me si sono resi conto del fatto una cosa grave, cioè nel senso... Ma io una domanda c'ho fuori da tutto questo che mi è venuto a mente mentre parlavamo. Tipo, ma quanto costa la... No, ma... ma... negli ambiti proprio della regina e quindi cioè delle voci che magari stanno lì intorno, ma che cioè non si sa lei come si pone di fronte a sta tutta questa io ho pensato di chiamarla però per... No, in realtà loro non possono neanche esprimere opinioni politiche. Sì, in realtà la regina non può esprimere opinioni e c'erano anche lì una fonte di informazione, sono meme su Facebook in cui la sua faccia non esprimeva tanta contentezza all'alba del referendum. Però poi fatto sta che ha dato il permesso a Johnson di chiudere il Parlamento, per cui è un po' indecisa. Non poteva fare altrimenti comunque. Ossia, puoi non firmare, ma poi dopo, cioè nel senso, è un po' come il presidente della Repubblica da noi, cioè la prima volta non firma. Il potere è limitato comunque. Esatto, cioè nel senso, poi dopo se te lo ripresento lo devi firmare, nel senso, è comunque non puoi andare contro quello che è il volere né del governo né del Parlamento. Questo è un po' perché essendo poi una monarchia costituzionale, appunto, la loro è una figura rappresentativa, non è più una figura politica, quindi un po' questo. Io lo capisco che ha fatto effetto il fatto che lei lo abbia firmato, però secondo me non credo che avesse non tutte queste alternative, insomma. Sì, no, è ragionevole effettivamente, però sì, fondamentalmente non trapela niente da lì, non fanno trapelare assolutamente niente. Comunque no, veramente io da un lato, da un punto di vista di curiosità, è un esperimento, vabbè, però è un esempio veramente di loop democratico cattivo uso di uno strumento veramente importante quale il referendum, che tra l'altro in UK è senza quorum, per cui uno fa una domanda così importante alla leggera, senza quorum, senza una corretta informazione, poi si trova ed è una catastrofe, certo. Ed è una catastrofe e poi questo loop, come dici tu, proprio a livello di anche contrattazione, cioè veramente penso non c'è un precedente nell'era democratica, poi non so, nel senso, però no, perché loro vogliono uscire senza dover venire la moglie, la botte piena e la moglie ubriaca, esatto. Quindi insomma, comunque immagino, sempre tornando al fatto che hanno un po' la sensazione di grandiosità, secondo me è che magari pensavano che l'Europa sarebbe collassata, se cioè avrebbe proposto chissà cosa pur di averli, no? Nel senso forse sì. E invece l'Europa tranquillissima ha detto vabbè, te ne vai andare, vai, basta che mi paghi, dai i soldi, perché poi c'è pure quello, no? Anche il discorso che vattene, stati bene. E questo non se l'aspettavano, secondo me, poi non lo so, sono rimasti un po' così. Interessante questo punto di vista, ma interessante anche quello che hai detto prima. Allora, a questo punto io punto tutto sulla Scozia, spero che caso mai vada tutto in porto, la Scozia gli farà pagare. Sono 500 anni che provano a staccarsi, prima o poi, da simpatizzante degli scozzesi, prima o poi secondo me ce la faranno. Vabbè, ma secondo però una cosa che è molto impopolare da dire agli scozzesi, però io tantissimissime differenze, non è che poi ce le vedo, però vabbè, questo, ecco, questo però... Sì, però come dici tu, non glielo dire allo scozzese. Non ditelo agli scozzesi. Vabbè, allora facciamo così, a novembre ci risentiamo. Va bene, vi faccio il primo novembre ti cerchiamo. Primo magari ancora presto, vediamo quello che è. Però, insomma, ma però ci informiamo per sapere dove stai. Esatto, sì. Noi intanto ti scriviamo, tutto a posto. Vado giù al Parlamento a vedere cosa sta. Succederà sicuramente qualcosa lì sotto, se veramente avviene il Capodanno, si fa un Halloween. Facciamo sotto il l'inviata speciale. Sì. Faccio l'inviata. Perfetto, già ormai sei della squadra, ormai abbiamo inglobato. Non succede mai con Runtime sta cosa. La nostra corrispondente dall'Inghilterra. Di solito noi quando abbiamo un ascoltatore o un collaboratore, improvvisamente, anzi un ascoltatore o comunque un simpatizzante, improvvisamente diventa parte integrante. Diventa team, bello, perfetto. Bisogna essere inclusivi, vedi, tutte queste barriere, basta. Ecco, brava. Bene Ilaria, in bocca al lupo allora. Crepi, oh, viva il lupo come esatto. Viva il lupo. E ci sentiamo presto, ti ringraziamo comunque di aver veramente partecipato a questa chiacchierata che è stata interessante, ma sono sicuro che ne usciranno fuori anche altre in futuro, insomma. E grazie a voi, mi ha fatto tanto piacere raccontare un po' di quella della follia oltre collettiva. Va bene, va bene. Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao. Vedo che tutto intorno è nuvola, a qualche non scivola e mi confonde un po'. Dentro me si fa largo un brivido, squarcia il corpo morbido. Sola io sotto mano, non me lascia sola, sento frida. Abbiamo ascoltato Nebbia l'abbiamo ascoltata perché questo brano che dice, ma che brano è? È un brano un po' particolare, Michela, che brano è? Perché? È un brano di Ilaria, della stessa Ilaria che abbiamo intervistato, lei si chiama Ilaria TS, scritto proprio così, TS, okay. Perché il nome e cognome è tutto un po' lungo, diciamo. Ok, la trovate su SoundCloud, quindi la trovate facilmente con questo nome, è bravissima. Abbiamo scelto Nebbia semplicemente per il titolo, perché sono tutte canzoni molto belle, Ma questa comunque ricordava, pensando Londra, dice, l'ambiente londinese, no? La London Fog, eccetera, eccetera. Ma la possiamo quindi anche dedicare ad Alex Raccuglia questa canzone, cioè, tipo c'è la nebbia pure a Milano, c'è a Milano c'è la nebbia, sì, a Simone Cusella possiamo, ai milanesi, a ok, Milano, a tutti. Comunque bellissima intervista, veramente molto molto molto interessante, un contributo che mancava almeno nella nostra radio. Sappiamo che Ilaria si è appassionata subito a questo mondo e presto secondo me la sentiremo arrivare da qualche parte. Perché annunci cose che non sai se succederanno o non succederanno. Infatti ho detto secondo me. Ma secondo te, perché poi c'è questa cosa di tutti quelli che contribuiscono oppure partecipano e poi dopo magari ci piacciono e noi li fai cocidiamo. Questo si chiama sfruttamento. È sbagliata questa cosa. L'abbiamo va benissimo, è sfruttamento gratuito delle persone. Comunque a noi di Ilaria ci è piaciuto il piglio geniale, anche il modo in cui lei ha raccontato un po' questa cosa, perché poteva essere una cosa molto più seriosa. Invece, diciamo, è stata un'intervista brillante, ci è veramente piaciuta. E poi c'è anche la super metafora che... Beh sì, la super metafora vince su tutto. Io vorrei veramente che qualcuno mi disegnasse un luogo con il submarine sottomariggio di formaggio. Sottomariggio di formaggio, non consente ancora. Sottomariggio di formaggio. Sottomarino di formaggio, il cheese submarine. Ma sì, ma come rendere però un po'... Però we all live in yellow submarine, quindi esatto, cioè, secondo me i Beatles l'avevano capita sta cosa già in principio. Sapevano che un giorno sarebbe arrivato qualcuno a sarebbe parlare. Sarebbe arrivata Ilaria e ci avrebbe parlato di un sottomarino di formaggio. Bene, il tema è sempre interessante, sempre vivo, torneremo a parlarne, torneremo probabilmente come... anche in una puntata, insomma, dedicata proprio, cioè nel senso, perché stanno succedendo una marea di cose, noi non ci siamo. Allora torneremo sicuramente torneremo prima del 1 novembre, quindi aspettateci perché torniamo presto. Torniamo per i morti, no? No, prima del 1 novembre, perché il 1 novembre è l'ora X, quindi se mai questa Brexit il 31 ottobre verrà emanata, questa legge verrà emanata, e ci abbiamo l'inviata speciale che è Ilaria, che andrà per strada e ci racconterà come Paolo Brosio faceva con i Vigliofede. Noi ci abbiamo Ilaria. Scansati di più a destra. Oppure, noi ci abbiamo Ilaria. Compra, mi raccomando, compra tante scatole di fagioli, che è importante, questo non abbiamo detto. E quindi che testerà praticamente l'anima della città e ce lo racconterà sicuramente. La costringeremo a farlo. E torneremo prima perché comunque l'Europa e il mondo sta attraversando un periodo veramente veramente difficile. Non che tutti quelli che abbiamo passato fino adesso siano facili, però ci sembra che quello che sta succedendo in questo istante, in questo momento, in Siria, in Turchia, l'attacco della Turchia contro i curdi, e l'Europa che sì, vabbè, però è esagerato, però forse, però ci sembra che sia veramente un momento difficile. Io mi schiero come tantissime persone a favore del popolo curdo e spero che non lo lasceranno solo. Del poro curdo? No, del popolo curdo. Spero che non verrà lasciato solo, perché assolutamente la vergogna, cioè lasciare solo un popolo così coraggioso, così... così importante anche per la nostra difesa, che è stato così importante anche per la nostra difesa nei confronti dell'ISIS, è veramente una vergogna dell'umanità. E poi i rifugiati hanno bisogno di protezione, forse se un giorno diventassimo umani potremmo capire che questo è un elemento basilare dell'essere umano e degli accordi nazionali. Nel frattempo qua fuori sta facendo sì, c'è gente che non so se bisticciano o fanno qualcosa. Va bene, quindi torneremo presto con Everything, anche con puntate insomma un po' più omogenee, esatto, con l'Everything che si arrabbia contro, esatto, sì, quelli, perché insomma è cambiato il governo in Italia, però gli acciai continuano a sciogliersi, le guerre continuano a scoppiare, però anche i migranti continuano ad annegare, ma il problema è che bisogna chiudere i porti. Quindi detto questo, noi ci vediamo alla prossima puntata, che sarà insomma brevemente a novembre. No, prima di novembre torniamo con Everything. Oggi che registriamo è 10 ottobre. La puntata andrà in onda in settimana. Entro un paio di settimane dobbiamo assolutamente tornare, perché il ferro va battuto quando è caldo. E qua c'è molto molto molto di che parlare. Parli se non succede una cosa. Tra l'altro io faccio un annuncio qua, così tra gli ascoltatori, se posso. Se magari me lo permetti, stai a parlare tu, ma che vuoi? Se qualcuno, guarda che Ilaria sai che mestiere fa, quindi vai. Guarda, sono circondata da amici. Vai dove è andato il ragazzo. Ok, volevo dire che se qualcuno conosce giornalisti o comunque persone che possono in qualche modo aiutarci a capire la situazione mondiale, europea, Turchia, Siria, eccetera eccetera, è ben accetto, perché comunque vorremmo approfondire questo discorso, vorremmo tornare ai vecchi approfondimenti di tutto un podcast quando facciamo le trasmissioni portando sempre degli ospiti. Quindi io mi prendo la briga di dire che cerchiamo personaggi che conoscono i temi che vogliamo affrontare, che magari ci vogliono proporre dei temi da affrontare. Quindi torniamo con un Everything che riguarda un po' di tutto un podcast, che tanto è uguale, cioè non è che è cambiato che solo il nome, comunque viene ricordato bene, insomma ci ricordiamo quelle belle puntate sul nucleare, ce lo ricordiamo era un bravo uomo. Chi? Che non so, di tutto un podcast. Vabbè, ma non mi stai prendendo sul serio? No, ti prendo sul serio, è vero. Torniamo ovviamente a parlare dei temi importanti con degli ospiti, ma gli ospiti ci dobbiamo cercare noi, non è che devi fare l'annuncio dicendo me cercate gli ospiti, se ce l'hanno l'altro si ritengono. Io lavoro come redazione, allora se gli altri ce l'hanno e se li tengono sono un po' stronzi, scusate la parolaccia, però bene. Vedete anche perché comunque vai con i titoli di coda. Ognuno ha la propria tipologia di podcast, di trasmissione, quindi comunque noi siamo più generalisti, quindi ci meritiamo che gli intellettuali vengano a noi. Vabbè, voi considerate che mia moglie in questo periodo è in una fase competitiva, non so con chi, con no, tutti. No, ma io non sto facendo, non è una fase, la mia non è una fase competitiva, è veramente una volontà. Un invito. Sì. Bene, va bene, però cerchiamocelo anche da soli. Ma assolutamente sì, ma lo stavo comunque dicendo agli ascoltatori. Non sei incline allo scherzo questa sera, hai preso troppo sul serio questo. Assolutamente sì. Anche se si parla di Brexit, è un argomento importante, oppure tutti gli altri. Insomma, comunque, intanto anche un sorriso, cerchiamo di portarcelo a casa. Detto questo, Michela, io direi che io ti saluto. Poi se tu vuoi continuare a registrare da sola, no, vai. Io ti saluto perché vado dove è andato il ragazzo. Vai dove è andato il ragazzo. Ma soprattutto ti ci mando anche a te dove è andato il ragazzo. E facciamo col pensiero finale a Gamera, che è la nostra piccola gattina che è stata operata. E praticamente vai in giro con... Vabbè, cioè abbiamo un telefunken in casa. Con collare della regina. Niente di grave. Che per un gatto penso sia una cosa stranissima, veramente stranissima. E c'è l'altro gatto che praticamente la guarda con diffidenza perché non la riconosce. Dice, ma tu chi sei? Chi sei tu? Vabbè, comunque, storia di ordinaria follia in casa, ma sicuramente si riprenderà presto. E soprattutto di questo argomento parleremo, perché la sterilizzazione comunque è un tema, è un tema, sì, è un tema. Quello dell'abbandono degli animali è veramente un tema molto molto molto complesso. Importante. Vabbè, tu poi stai facendo un certo tipo di lavoro, quindi sì, anche lì chiapperai l'ospite per parlare di questa cosa. Più ospiti. Tanto abbiamo postazioni, microfoni qui, anzi. Pronti. Va bene. Grazie di tutto, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata e continuate a sentire tutti gli altri programmi di Runtime Radio. Da Simone Pizzi è tutto. E da Michela De Paola è tutto. Baci e abbracci. Assolutamente.